storie denoaltri. Tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari e Antonio Ceccato. Buonasera. Buonasera a tutti voi da parte di Gesi e di Antonio. Oh Antonio, incominciamo novembre. Sì, qui il tempo delle foglie morte, il tempo dei ricordi, così, il tempo della rilassatezza in certo modo. Ma lo sai quanta gente mi dice, oh, che brutto periodo. Ma io lo trovo uno dei migliori dell'anno. Anch'io. E vedi gli animi sensibili. Per me è un... così ti senti ovattato, ti senti... Diciamo che dà proprio il segno della, come dire, della scansione delle stagioni, del tempo che passa. Certo. Comunque a me piace questo periodo, proprio fino a Natale, così, dopo le feste. Va bene, bando alle ciance e andiamo avanti. Ecco. Allora, benvenute amiche ed amici su Blu Radio Veneto. Noi vi ricordiamo il nostro indirizzo internet www.bluradioveneto.it. Per consigli, proposte e suggerimenti, il nostro numero di telefono è il 346 23 20 033. Esiste naturalmente la possibilità di ascolto in streaming oppure di effettuare il download, cioè scaricare su PC i nostri incontri. E ringraziamo e salutiamo il nostro regista. Questa sera non abbiamo un ospite, diciamo, in carne ed ossa, ma un collegamento telefonico con la signora Franca Turchetto da Venezia. Quindi stasera si parlerà di Venezia. Naturalmente. Allora, adesso ascoltiamo la prima canzone e poi avremo in collegamento la signora Franca. Allora, la prima canzone in programma è Vecchio Gondolier, cantata da Gino Latilla. Così, vedi, faccio due cose in una. Una canzone veneziana e un omaggio a Gino Latilla, che è scomparso da non molto tempo. L'antica e dolce come un madrigale, sempre se Venezia un sogno musicale. Vecchio gondolier, spiegami perché tutto intorno a me musica che se mi non so cantare, voce mi non può, Venezia ti se sa, tutta ispirazione sotto il ponte dei sospiri nel chiaror lunar. Se un poema senza fine star ad ascoltare, vecchio gondolier, spiegami perché tutto intorno a me musica che se. Thank you. Eccoci di nuovo in studio e abbiamo al telefono la signora Franca Turchetto. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, buonasera Franca. Buonasera, Franca. Ben risentiti. Bentornata anche tu. Grazie. Noi. Grazie. So che stasera avrai tante cose da raccontarci. Speriamo di esaurirle tutte, perché mi sai che so c'è corona, che ne ho tante robe. Vabbè, dai. Intanto con cosa cominci stasera? Mi volevo parlare della festività della Madonna della Salute, perché sto mese qua l'undese è la sua ricorrenza. Non sei il 21? Sì, il 21, dai, se con San Martino mi ho confusa. Va bene, dai. Perdonami. No. E appunto volevo cominciare un spiegare un fiantino, qualcosetta, ecco, dai, adesso mi sentirei, va bene? Va bene. Quello che faccio ora di e quello che non faccio ora di quest'anno che viene. Va bene. Vi prometto. Va bene. Va bene, allora cominciamo un fiantino con l'origine della peste, prima di parlare di accesa. Allora qua, no... gli storici dicono che il più antico ricordo del contagio risale al 954 addirittura, seguito da altri 62 casi che non stiamo qua a elencare, bisogna vedere che a volta come che dare situazione e tutto il resto. Verso però la metà del 300 la Repubblica Veneziana scomincia a ragionare un fiantin sola per risolvere questo problema, perché dice qua ne capita tutte queste disgrazie, ma come se che fermo a mettersi ai ripari. E ora praticamente viene nominato tre savi che sarebbero stati usati che tre persone esperte di mestiere, diremo, no? Per tenere un fiantin sotto controllo queste epidemie, queste malattie che arrivavano fuori. E io avevo capito allora che bisognava isolare tutto quello che veniva proveniente da fuori al luogo di Venezia e cominciare a mettere in quarantena. Per fortuna noi altri a Venezia, torno alla laguna, avevamo che bei isole che adesso era ripristinare, ma una volta c'era monasteri, c'era conventi de frate, e ha cominciato con l'aria buona, con un bel giro de bora o de insomma, a isolare e tenerli acquieti finché passava insomma sta quarantena. E veniva, diremo, messo in quarantena tutto quello che c'era a bordo delle navi, dal bestiame a merce e al carico. Sì, perché sapendo che venivano da fuori. Sì. Praticamente che già ricordami che ori doperava per rigare corde, robe deve. Sporco, acqua, una specie di dogana, quindi è una cosa. No, una dogana proprio, era un ricovero. Un ricovero, quindi una separazione netta che era 5 siede che Isoea, perché dopo si è trasformato uno in manicomio da donne, uno in manicomio da uomini, dopo che c'era l'isola della Grazia, che c'era per malattie infettive, un'altra isola della tubercolosi, insomma non sapeva come salvaguardarsi da ste robe antica Repubblica di Venezia, probabilmente perché queste isole erano fiantini fuori del centro abitato. Però arrivava tutta ironia qua, e qualche volta appunto capitava che queste malattie non c'era riconosciute, come che succede anche adesso, anche magari cura una roba e dopo è un'altra. E gli scambiava anche magari per influenza, robe, invece insomma... Scusa Franca, ma non c'era la peste bubonica? Tre tipi. C'era la bubonica perché veniva fuori, sapevano, fuori di buboni. Sì. Dei brufoloni, delle mograndi, sì. E colpiva la maggior parte i punti più caldi del corpo, cioè sotto i scagi. Sotto le ascelle, sotto... Sì, sotto da dire rete. Sì. I mesi linguini, sì. Punti più caldi e altri già da disastri, perché non stiamo qua a dire cosa che succedeva e cosa che faceva, perché sarebbe proprio robe truculento. No, è già la tortura. Veramente, sì. Tanto è vero che tre desti lazzaretti qua a Venezia veniva chiamati, secondo la gravità, diremo, del caso, veniva chiamati inferno, purgatorio e paradiso. Sì, dai urli, dai robe che veniva fuori, perché cioè, già erano martirizzati. Pensa un po'. E ora questa è un fiantino l'origine, diremo. Adesso torniamo. Dopo cosa che succedeva anche? Che ori, essendo che un capucco igiene, quando chi arrivava sta roba, gli provvedeva anche a disinfettare i vestiti, tutto quanto, gli brusava, gli faceva insomma dei servizi particolari che non so se sulle altre città, insomma, gli era. Con i mezzi che avevano una volta, perché... ma ori, Repubblica di Venezia che aveva tutto. non gli mancava niente, nel suo povero non gli mancava niente. Okay. Allora, sull'origine invece dell'epidemia quella proprio che siamo di parlare adesso del si è sento, diremo, è sarebbe stata da paragonare proprio a, a stesso episodio di una stessa peste dei Promessi Sposi. Ah. È se stessa, perché proprio il periodo è sempre quello. No? Proprio veniva un personaggio che l'ha portata da, che veniva da Mantova. Ah, addirittura. Povera Mantova. Ciao, povera Mantova. Vabbè. Allora, adesso parliamo di questa. L'epidemia, questa qua nostra, diremo, non è stata portata dai sorsi, perché praticamente veniva portata anche da quei bestie, eh? Perché io rimanendo in mezzo a roba rosegando, roba marcia, roba vecchia, quasi, quello che ti vuol dire, gli ciappava sto virus, sto morbo, no? Ah, poi Puisi, che camminava per tessura, si infettava ori e a sua volta beccava gente umana e gli iniettava il morbo, e così che veniva fuori epidemia di peste. Sì, da contatto. Contagio. Allora, praticamente, insomma, non vediamo che la colpa nei sorsi neanche i Puisi, ma l'ha portata proprio il barone, adesso ti dico anche il nome, String, che veniva giù da Mantova, dove la malattia che aveva già fatto i suoi anni. Sto String arriva a Venezia l'8 di luglio del 630 mie e secondo le regole sanitarie, sapendo che veniva da un posto già infetto, era stato mandato subito in quarantena su una di queste isole, però lui era già infetto. Dopo pochi giorni, sto ambasciatore praticamente è morto perché non c'era più da recuperare. Ma quella malattia lì non salvava nessuno, vero? No, che al momento no, perché gli aveva ancora da capire, o di più dei disinfettarli facevano che c'era penicillina, non che c'era antibiotico. Gli aveva dei volte operava quella specie di panacea, non so se avevi sentito mai nominare, Ateriaca. Ateriaca, sì, ecco, sì. Ecco, magari quella come un guento o come se c'era, diremo, in manteca, se era liquida e che ne davamo scusa. Che cosa, quella panacea cateriaca, guarda che è stata una specie come adesso che c'è l'aloe. Può darsi, sì. E adesso con l'aloe dice che... Una sostanza efficace in diverse tipi di affezioni. Perché aveva di componimenti. Ma insomma, torniamo dopo poco però di sto ambasciatore, è morto un marangon, cioè un faegname che lavorava a su sta isola, che la Repubblica io aveva mandato a restaurare, siccome che già era una personalità, ed andava magari a mettere che posto a camera, da canna sbianchisata, a mettere che posto Maria Careghi, i mobili, e invece si era ciappato anche lui, dopo un mese si è morto un casto marangon, che a sua volta lui ciappando il morbo, il virus, diremo l'infetto che aveva cominciato a infettare dal quarto di Venezia. Perché c'era una roba, ti vedi, che prima pensava che fosse di maniari, dopo praticamente il contatto c'era proprio il fiato. Sì. È contatto fisico, te sì. Capito? Dopo, la trasmissione o... Sì, sì. E difatti, insomma, i primi morti di Venezia se stai questi. E la peste praticamente comincia dopo a divagare da casa in casa, dappertutto, e la città si spopola. Che c'era 150 mie persone che rischiava sto contagio, che era diventato un gran pericolo. E ora un poco per mancanza di igiene, medicine e l'aria diventata infetta, non che c'era niente da fare. Non c'era via di scampo. Sì, l'unico rimedio che poteva salvare, diremmo, sta povera gente, c'era l'unica roba che aveva, saassi, purganti, sanguisuga, che nettava tutti, diremo, gli intestini, ma pareti niente da fare. Purtroppo sì. Allora cominciavi i lazaretti, che come che ho detto prima, che ne c'era due o tre sparsi per coso, c'era talmente pieni che non era più buono tenere il controllo, perché ciò ne capitava a centinaia tutti i giorni. E strade cominciava a svuotarsi, e che c'era un silenzio fatto proprio e a menti e incubo della morte, sì. Allora però qualcuno anche riusciva a scappolarlo tutto male, perché c'ho mica tutti che aveva gli anticorpi, che andava bene, e dipende anche dal fisico, sì, poi sì, di ognuno, sì. Però gli girava per le strade chi pareva più morti che vivi, immagino. Sì. E ora ogni tentativo di un fallimento, perché proprio non sapeva a questo punto più cosa fare, perché non è che magari quei prime cure che faceva gli vedeva un beneficio, andava avanti con l'epidemia rotta del coro, insomma. E non sapeva più cosa fare, più che santi invocare, se no che, cosa hai detto? Cominciamo a pregare. Non restava altro che trovare conforto nella vera fede. Tanto è vero che il patriarca dell'epoca, che qua adesso non sta godendo tutti i nomi perché si chiama Saronghe, era dato a disposizione che tutti i sacerdoti dovevano organizzare dei digiuni e delle processioni. E il 22 novembre, per scongiurare questo flageo, si è fatto un voto di dedicare una chiesa a Madonna. E viene deciso che per 15 volte del sabato che fosse fatta una gran processione in piazza San Marco. E ora ripartiva clero, sacerdoti, trombe, epifari, capei, chi più ne metta, e a cantare Ave Maria, Viva Maria, Rosa del Coro. Quindi ogni anno? No, e ora prima, no, ogni anno. Questo qua io dovevo farlo per 15 volte al sabato. Cioè, era un'invocazione, cominciava a pregare così. Dopo queste processioni che veniva fatta in piazza San Marco, io cominciavo a fare l'eldoge dell'epoca, che ha fatto una solenne messa. E invece di demandare aiuto, appunto per domandare aiuto, viene fatta una messa in chiesa e viene tirata sotto dall'altare la famosa Madonna Nera, quella che c'è sull'altare in chiesa a San Marco, no? Non so se l'avete mai vista o... Sì, non ricordo, penso, però mi pare che questa Madonna Nera che viene chiamata Nicopeia. Ah sì, esattamente. Ecco, allora gli ha fatto questa messa, no? Finì la messa, il doge monta solo al pulpito e dopo verse cava via il cappello, il corno che aveva il doge e posa ai piedi, io posa ai piedi del crocifisso, e manda un saluto affettuoso a sta Madonna Nera, diremo, sì, domandando pietà. Oh. E ora che dice che perché sta città non diventa un deserto, ecco, è supplica che fa il doge. E mi, se mi permette, rieso, però in italiano. Va bene. Vado avanti? Sì. Sì, sì. Allora è supplica di questa. E che dice, ave stella del mare, donna delle vittorie, si aprì così la pubblica proclamazione del voto fatta dal doge a San Marco di fronte alla cittadinanza spossata dal morbo. Vedi, ai tuoi piedi, continuò il doge, prostrato un afflitto popolo fatto di bersaglio al fragello della divina giustizia. La guerra, la pestilenza, la fame, con orribile lotta si disputano a vicenda fra di loro le vittime e tutte su noi vogliono trionfo e desolazione di morte. Mira come i nostri aspetti spauriti dal disagio, lividi dalla malattia, consunti dalle afflizioni, sporgono sotto la pelle le ossa spogliate. Vedi come i nostri passi vacillano, come si dilegua il coraggio della nazione, estinguendosi il rampollo di tante illustre famiglie. Ecco la richiesta e la promessa da cui derivano, secondo la tradizione, la salvezza della città e l'edificazione della Basilica della Salute. Siamo peccatori, è vero, e perciò ti ricordiamo come a nostro rifugio. Prega per noi, il divin tuo figliolo, faccia, salvi gli eletti suoi, scacci, allontani, annichiti la tremenda lue che contamina le nostre vene, che miete tante vite, che desola i servi tuoi. Al lampo benefico della tua grazia, l'anica nostra commossa intuonerà l'inno di laudazione e col coro dei celesti confesseremo le glorie tue. Il tuo santo nome di Dio, ricevi l'umile offerta di un tempio, sulle vaste pareti del quale vogliono che i secoli in avvenire scorgano impressi i tratti di tutta la nostra religione e dove i successori nostri e i posteri tributeranno annui rendimenti di grazie perpetuamente a te, ausiliatrice e avvocata di questa Repubblica. E questo bella sta supplica, veramente supplica. Bella. Ascolta Franca, ci fermiamo un momentino, sì, per ascoltarci una canzone, sì, sì, e poi torniamo con te. Sì, grazie. La seconda canzone in programma è cantata da Adriano Celentano ed è intitolata Quello che non ti ho detto mai. Eccoci di nuovo in studio, ancora con la signora Franca. Franca? Sì, pronto. Eccoci qua, sì, ancora sì. In studio con te. Grazie. E così continuerai sì. Il tuo... Sì. Dunque, dopo fatta sta supplica, diremo, a sto punto qua, i senatori si ha messo in riunione e il gassernio, il posto dove doveva essere costruita questa nuova chiesa, no? È il posto che c'era, bello grande, ma che c'era case vecchie, che c'era un convento, un monastero, e ha deciso insomma ben come fare i lavori. E su un dei progetti presentati dai vari architetti, e a gara è stata vinta da un giovane di appena 26 anni, il famoso Baldassare Longhena. Lui aveva 26 anni. Penso. E gli ha dedicato tutta la sua vita per vedere la sua stupenda opera, ma è morto prima di finirla. Che peccato. Eh sì, perché si sta in caiù, insomma, qua peste in caiù. Vittima del morbo. Sì. E l'ha portata a termine un suo collaboratore, un certo Antonio Gaspar, che non sappiamo questo architetto che sia sta, insomma. E la prima pietra è stata posata il 25 marzo del 1631. Un gran giorno, sto qua, per Venezia, in quanto era l'anniversario, mi non so come chi ha fatto sti conti, mi vi dico come che... Beh sì, certo, certo. E papà fu impossibile con tutte le riforme di calendari che neanche non esisteva, ad ogni modo non importa. E ora dici, in quanto c'era l'anniversario della creazione del mondo. Addirittura. Sì, l'annunciazione, e qui a che credo, sì, sì. E la crocefissione, e in più la fondazione di Venezia. Pensa un quel po'. Giorno è quel 25 marzo di ogni anno successivo sono successe tutte queste robe. Ecco. Pensa un po'. Sì, no, quella della Fondazione Venezia è proprio leggenda che dice che sia stata le prime casette che abbiamo già parlato un po' fa. Sì, il sì. 25 marzo del 4 e 21. Boh. Insomma, sto 25 marzo è una data un po' fatidica. Sì, de fatica. Allora, ella è consacrata nel 1687. 5 anni proprio dopo la morte del secondo architetto, allora. Il primo è morto per conto suo, sì, 5 anni dopo. E in quanto appunto sto Longhena era morto un caio di peste, per la sua costruzione di sta chiesa, i gas cominciano a smarteare tutto quello che c'era attorno, buttare giù case, casette, insomma tutto quello che c'era per poter lavorare senza intoppi. Sempre per la prima posa della pietra, ne porta a ricordare la storia, gli ha messo una medaglia d'oro sotto, 10 d'argento e 12 di rame. Oh. E sta gran chiesa, una volta finita, a conti fatti, a Repubblica che ha costato 450.000 ducati, che a volte era d'oro, un peso di quasi 14 tonnellate. Sì. Pensa un po'. Cioè, 450.000 ducati era d'oro. Ah. A peso, veniva fuori 14 tonnellate d'oro. Ah. E si sta impiantando su quel spazio che lui ha destinato a sta chiesa, ben 1.156.627 mia tronchi di legno. Cosa sterminata, grazie degno de frassino, de rove e altri egnami, no? Sì. Io che pensai che sto spazio sta in bonio con questi tronchi di legno, gli ha messi però no tutti dritti, gli ha messi come i seste. Ah. Intrecciati, ecco, appunto per chi avesse da stare abbracciati per tutta la vita fra le ori. E io a sto punto, adesso sono una roba mia personale, mi dico, chi diria che nel piazzale di sto campo che tiene su è accesa, che si è impiantati tanti pai? Cioè, uno che non sa, dice, ma i smatti sti qua. E pur ciò, sì. Certo. Allora, mi una volta, e questa non è storia, è mia storia, mi una volta go di mandare a un religioso dove che scominciasse accesa. Perché accesa non comincia ad escainare. Ah. No. E ora io mi fa, beh, fa questa domanda, nessuno mi aveva mai fatta. E ora mi risponde che accesa comincia da escainare d'acqua. Sì, dall'acqua. Dall'acqua. Che se ne escainata perché ora si ferma e gondo e che è una prodo, insomma. Ho capito. E accesa comincia proprio da riva. Perché, cioè arriva qui che va dal canale, perché sia a destra desta scainata che se su arriva, sia a sinistra, che se do angeli di marmo che fa la guardia. È bello. E sti qua si vede, ben non, quando l'acqua arriva a una certa altezza, tanto da essere sti due angeli ben visti. E se destirai, in piedi. Ah, in orizzontale. Ho capito. Dice da destra e sinistra di arriva, uno che magari non lo sa, neanche mi vede, ma mi adesso che lo so, se passa col batteo, mi butto, se, no, col passavo perché non avevo più, butto sempre l'occio là e esito angelo. Il frate mi aveva detto che è accesa desidera di essere aiuta e comincia a tagliare da chi do angeli. Comunque questi due angeli non sono visibili proprio. No, cioè se l'acqua che supera magari un livello, no, acqua alta intera, sì, insomma sì. Se è una media misura, si vede perché c'è cioè, scainata di arriva e si vede. Sì. Se proprio si cementai sul marmo di affondamento, Nuiseso di Scaini, ti ha capito. Bella però sta idea di mettere due angeli. Sì, due angeli, come diremo custodi di questo... E a cosa, tornando, no, niente, adesso mi te dico quello che mi può ricordarmi ora sta accesa, perché dopo che se dopo il voto sta accesa, non è diventata una festa religiosa solo per i veneziani, è c'era per tutto il Veneto, e praticamente c'era una specie di... adesso non mi viene a parole, del pellegrinaggio. Ma difatti io conosco tanta gente che il giorno della Madonna della Salute vengano a Venezia per... Sì, perché seria, ti vedi, seria proprio un pellegrinaggio, perché peste non ha colpito solo Venezia, era in tutto il Veneto. Sì, anche l'entroterra. Sì, l'entroterra. So che quando che i veneziani nel 60, 59-60, che cominciava a passare di qua del ponte, è il persone che ha diminuito di andare a Venezia. Perché gli ha istituito altre cese e gli ha intitolato Madonna della Salute. Ah. Perciò qua in terraferma che ne si dà un numero, cioè se uno va a Venezia, va a Venezia e ame. Solo ti vedi che adesso si fa lì anche a Prestin, ma una volta mi ricordo, che adesso vi spiego quello che mi ricordo me, ed era la processione dei chilometri. Un pellegrinaggio, ti partivi la mattina e ti arrivavi a sera a casa. Ah. Perché ti si camminava pian pianin. Eh beh sì, come nelle processioni. No, processione è una roba, pellegrinaggio è un altro, ti ha capito? Perché ora praticamente che se è a strada qui a diremo principale che si affondamenta, che ti parti affondamenta finché ti arrivi in chiesa, che ha proprio se una processione tremenda. Però dopo, verso più il centro della città, che ora che sei caete, e anche a quelle piene, delle volte vi intasai e veniva, adesso non so, e anche già divisi proprio, che ti faceva deviare, vado qua che siamo qui dentro, e caete se strette, se fa presto fa nuccio a Venezia. Sì. Però era una giornata, e hanno che c'era piova che tenivano, che c'era vento che ti proibivano, che c'era acqua alta che non ti andavi, che c'era caigo che non ti andavi, e ti andavi con tutti i tipi di intemperie, se che c'era sol, grazie a Dio, se no vento, piova, neve, caigo, e ti andavi. Comunque è molto sentita questa tradizione. Sì, sì. E si sentita appunto perché... E a Zeo era quanti anni che Zeo, ad ogni modo... Beh, pensa un po'. Sì, sì, no, ma ti dico che siamo sui altri posti, ma no, come ha, insomma. Poi avevi il discorso che era sta candela da portare all'altare, non ti arrivavi mai. E anche ad era un affanno. Dentro la chiesa che se vediamo 8, sia, se non mi ricordo, sia cappelle minori, e ogni cappella ha una messa. Però ti vuoi andare all'altare, ti vuoi andare a portare la candela di Madonna, ti vuoi impissare e ha bisogno che ti faccia una coa tremenda anche in pie, ferma. Quindi sì, è una proprio un pellegrinaggio. Sì, proprio un pellegrinaggio. Sì, sì. E mi ricordo un'altra volta che lo domandami, quando che ti sei sull'entrata, su di accesa, diciamo che ti sei dentro, per andare dentro il portone, che sei i saghetti per parte che ti erano cure candele prima di impissarle. E mi no, le volte si parlava, ho detto, ma guarda, ho detto, ti va per portare la candela Madonna e ora ti ha domanda. Perché una volta impissata lui non fa, niente, non fa più niente, la consuma e butta via. Ah beh, sì. Era mica che lo domandava anche a me per cosa, e gli ho detto che candele chi vende fuori, che se centenera dei banchetti, non se c'era buona, se seo. Ah. E ora io probabilmente d'accordo col produttore che porta in drio. E i tolghi della differenza, i tolghi c'eri quelli da cerimonia, chi candeotti, chi ha, quando chi fa i messe soenni, no? Sì. Tutte accese, cioè i dolci era buona che durano. Certo. Ecco, però quelle candele appunto che trovi fuori non sono neanche benedette, bisogna andare entrare a farle benedire. Sì, anche a Asi un traffico se arrivare all'altare. Immagino. Immagino. Ti sai cosa che non agade bello per me sta cosa? Che non ti te concentri in preghiera. Per forza, perché se... Messe non ti che ne ascolti. E non ti vedi ora andare all'altare dopo scampar fuori perché ti sina fa. Ormai è finita, sì. Ecco. Allora, ho tempo, posso dire una sì. Allora, sta attenta. Allora, in pochi posti come in sta accesa, i veneziani ritrova nel giorno della sua festa un rinnovo spirito come rito propiziatorio, no? Che unisce tutti, credenti o anche no, perché manca gente che non che crede. Venezia, appunto, fra che è data che abbiamo detto prima, ha avuto questo incidente di questa pestilenza, per fortuna che si stanca l'ultimo della storia. E mi ricordo, fino a quando ero putea, mia mamma, il 21 di novembre, voleva portarmi a visitare questa chiesa della Madonna. E mi diceva, se è roba che avevamo bisogno più di tutti, e a Madonna se quella che ne può difendere meglio di tutti. Per me c'era una festa grande sta giornata. Come beh, immagino, sì, immagino. Come quella che con tanta gente per cae e te campiei non ti avevi mai. Se partiva di mattina o di dopo pranzo, tra mezzo una coa lunga che non finiva mai, e appareva un bison da tanto che si camminava pian, pian, pian, pian. Meno male che non era caldo, che non era estate. Eh beh, però dopo ti vedi che c'era gosesso. Che una volta che ti veniva fuori, che c'era i bancarei, quei bomboni, con tutte le robe che si sono sagre, sì, che sì, adesso. E una roba in più che la Venezia, dato che a stagione praticamente buttava sempre al brutto, al freddo, diremmo più che brutto, eh beh, sì, che c'era e osteria di che a volta che preparava una ricetta particolare per scaldarsi il stomaco. Cos'era, una bibita? Era, no, no, è castradina. Castradina. Castradina. Castradina, è proprio una ricetta antica veneziana che gli fa proprio in occasione de... Allora ascolta Franca, prima ascoltiamo una canzone, sì, e poi ci racconti di questa castradina, sì, sì. Attendi un attimo, sì, ok, va bene, ci sentiamo. Allora, la canzone, terza canzone in programma, è intitolata Che male fa innamorarsi alla mia età ed è cantata da Julio Iglesias. Le fa innamorarsi alla mia età, perché tu sei il mare e io sono il cielo e non ci incontreremo. E io mi domando la mia vita che sarà, perché son cambiato, perché sono strumento del tuo sentimento. Quando io credo di averti un po' per me, te ne vai scappando, cosa vai cercando, te ne vai lontano. Così ogni volta che torni qui da me, mi ritrovi sempre triste, sconsolato, però innamorato. Che male fa innamorarsi alla mia età, come ti diverte questo uomo inerte che insegue un sogno, ora è più evidente se ti tengo a mente che di te ho bisogno. Con la bocca amara devo dirti cara, amo solo te. Che male fa innamorarsi alla mia età, io che avevo fiato ora son scoppiato e ne porto il segno. Io non son la roccia che non teme scosa, son di carne e ossa, e chissà domani proprio io dirò a questo prezzo no. scappando, cosa stai cercando? Te ne vai lontano. Così ogni volta che torni qui da me, mi ritrovi sempre triste e sconsolato. C'ero innamorato. Che male fa innamorarsi alla mia età? Come ti diverte questo uomo inerte che insegue un sogno? Ora è più evidente se ti tengo a mente che di te ho bisogno. Con la bocca amara devo dirti cara, amo solo te. Che male fai. Eccoci di nuovo in studio. E abbiamo ancora in linea la signora Franca. Franca? Sì. Ci sei? Sì, sono ecco. Qua pronta. Allora, aspetta che mi metto... Ti mi senti? Sì, sì, ti sento bene. Ecco. Allora stai parlando della Castrasina. Castrasina, sì. È proprio l'origine dal giorno di che festa è, che la fa ogni anno. Ma che cos'è? No, è Castrasina, stai attenta, è serie di carne del castrà in fumega, come... Il castrà affumicato, no? Carne di castrà. Come la danno? Che avveniva, adesso non so perché fa ancora, avveniva che a volte da Dalmazia o dall'Albania o Albania, come che si dice, perché non so più buona pronunciare. E era infumegata e saiata, ti rappresenta il baccalà? Sì. Ecco, una roba così, no, una roba così dura come il baccalà, infumegata, secca. E doveva essere messa a bagno per 12 ore, cambiare l'acqua ogni tanto e a sala che si modificasse, diremo, e avarla più di qualche volta, tagliarla a tocchi e metterla al fuoco e cucinarla come che fosse un brodo, diremo, carne in brodo. C'è una cosa che si chiama che castraure? Castraure no. È un'altra roba. Un'altra cosa. No, gli artigiochetti e castraure. Ecco. E qui c'è castraure, artigiochetti, qui uno al boccone come esiso, Insomma, veniva e era fatto un brodo, si metteva dentro tutti i suoi erbe, seno, carota, segue. Dopo si assava a raffreddare e il giorno dopo si sgrassava tutto. Ah. Si cavava via tutto l'unto perché c'era sì, perché fuori, sennò chissà che unto che c'era. Tutte verdure e abbuggiva ancora più di un'ora, raffreddarla in un posto fresco, dopo cavare via tutto l'unto, tutto il grasso, rimetterla in brodo, impignata, e sontarghe foglie di cavolo verde, verza, e assala bugira enta finché sta carne diventava cotta, ma cotta bene. E com'era? Era buona? E cioè, non era come in maniera, però insomma, e veniva una soppa praticamente, veniva brodo, sta carne con verze e cavolo e tutte le sue verdure. Mamma mia! E ora sera, quando chi veniva fuori da Cesa, chi andava in osteria, e si faceva portare una squetta, una succhiereta di questa soppetta bella calda, provente. E si scaldavano. E gli toggiava dentro il pan biscottà, pan brustoano, perché che volta non c'era e robe che c'è adesso. Cibi poveri, giusto. Cibi secco, sì. E per quei che magari si vergognava che faceva schifo ma sta roba, andava in caffè e si beveva cioccolata calda con la panna, con i biscottini. E cose da signoretti allora? Sì, perché, sì voglio sì. Dire che era su distinzione, certo. Che discorsi era i baccarosi, andava a mangiarsi solo. Il baccaro famoso. I baccarosi non vanno a Castradina, però io fa ancora adesso, sanno, anche se non si aiuta, certe osterie io prepara. Solo che se cioè, è una ricetta proprio povera, ma va a lavoro. Una volta forse andava bene perché era le sue economiche, avevi capito? Eh sì, la mettevano lì. Metteva la pignata, stava abusiva. Tutto il giorno. Sì, ma adesso col gas che avevamo fa questi piatti tipici. È difficile farli probabilmente. Sì. Ma bisogna essere, insomma, uno che ha tradizione. Ecco, se vuoi sapere che cosa. Ecco, no, Franca, hai detto dimmi. Avevi una poesia da dire, non so, degli scalini, cos'è che avevi detto? Sì, che mi te mando un vaso. Ecco, ecco dico, si fa un fuori, adesso vi spiego un pochetto, uno di chi anni che sono andata, venendo giù da Cesa, mi ho visto 4-5 carosei dei ragazzi che aveva... Sì, decapati, sì. Ecco, e cioè praticamente se qualche d'uno non vede chi porta adesso la scainata, che è anche difficile, si contentava di stare anche a basso. Allora questo mio scritto è breve, è un titolo A, mi te mando un bacio. Se perde è a vista mia nel mirare a maestosa grandezza, tal porton vestito di rosso e a gran scainata che te circonda, che gode l'acqua del Canaasso, ne speciar tanta imponenza e opera de man maestra, che ga sa visto il marmo caressar. Dall'anseico tempio, che soe amorga per confine, sento osanar da coro in coro, è il tuo nome, benedio. Co fa fantuin che se butta brassacore di sua mamma, me cufo vissin de ti, Maria. Slarga il tuo manteo, che a tua man pietosa man caressa sia per la mia vita. Mi, par mi, omo puteo, che senta su sta carossea qui mie più problemi, mirarte vegno anch'io impissando la candea. Che a tua buona voce partorissa grazia, pasta terra infernata, te prego, Madonna, che il penar finissa. Fiamma deusa divina ti sei per me, Regina, e dai mie fiammei che te stare al viso, ecco, mi, da sta mia carossea, te mando un bacio. Bella, commovente. Ecco. Molto bella. Grazie, Franca. Niente, grazie a voi. La fede allo stato puro, naturalmente. Come? La fede allo stato puro, nel senso che proprio l'espressione di... Sì, sto fantuglio che ho visto, guardata scainata, mi è venuto sto pensiero che poteva pensare questo, ecco. Bella, bella, molto bella. Ecco. Allora Franca, noi ti ringraziamo tanto. Grazie a voi. Hai veramente esposto in maniera esauriente tutto. Spero appunto di avermi spiegato bene. Sì, hai fatto molto molto bene. Molto bene. E ti aspettiamo poi la prossima volta. Sì, va bene. Ecco. Vi saluto tutti quanti. Buona serata. Buona serata. Grazie, grazie Franca ancora. Ciao, grazie. E alla prossima volta. Alla grazie, prossima. Grazie, grazie Franca. E una buonanotte a tutti quanti, anche agli ascoltatori. Grazie, grazie Franca. Ciao, buonanotte anche a te. Alla prossima. Ciao, ciao. Bene, ringraziamo Franca che ha proprio esposto in maniera esauriente la storia della Madonna della Salute, in sostanza, e aspettiamo poi il prossimo mese. Allora adesso ci ascoltiamo una canzone, e la prossima canzone è In assenza di te, che è cantata da Laura Pausini. Come un albero nudo senza te, senza foglie, radici ormai, abbandonata così, per rinascere mi servi qui. Non c'è una cosa che non ricordi noi, in questa casa perduta ormai, mentre la neve va giù. Quasi Natale tu non ci sei più e mi manchi amore mio, tu mi manchi come quando cerco di, e in assenza di te io ti vorrei per dirti che tu mi manchi amore mio, il dolore. Dio Eccoci di nuovo in studio. Antonio? Sì, volevo dare il mio piccolo contributo, diciamo, alla storia di Venezia, naturalmente un qualcosa che è, così, è molto modesto, ma è simpatico, tratto dalle leggende su Venezia. La storia del merletto. Polo, pescatore, non era un fonte godeschei. Anzi, lo sapevano tutti che a rivoltarlo di sotto in su non se ne cavava nemmeno l'ombra di un'ombra di mezzo ducato. E pensare che di lui non si poteva dire un'ette che fosse, per esempio, con un braccio lungo e l'altro corto, per niente buono, cioè a industriarsi. Nel suo lavoro, Porocan ci metteva l'anima. Dall'alba al tramonto, dal tramonto all'alba, su quel benedetto sandoeo. Il fatto era che ai tempi suoi l'arte della pesca, pur essendo regolata dalle terminazioni della giustizia vecchia veneziana, perché il pesce si lasciasse crescere e alle sole opportune stagioni si pescasse e quindi fosse assicurata felicità di pesche copiose, era soggetta all'ingordigia dei compravendi di pesci. Erano loro che facevano il prezzo prendendo a strozzo i pescatori. Come sono cambiati i tempi. Quindi tutto lo sfacchinare di Polo non serviva a niente, come pestar acqua dentro il mortaio. Si dirà che almeno ci campava, d'accordo, e che quelli erano tempi che purtroppo difficilmente buttavano in bonaccia. Ma riempirsi alla meno peggio la pancia e far castelli in aria di prender moglie, arrivando al midollo delle cose, a dirla fuori dai denti, parevano cose che messe. Assieme non potevano stare, come andar di notte a scorpioni col feraeto. Invece per il Polo quella di sposarsi era diventata una voglia matta. Da quando la Olimpia, con le belle belline, gli aveva dato il bevaron. Come tutte le buranelle, i loro uomini se li sanno tenere e far ballare sulla corda come gli pare. Comunque, siccome da che mondo è mondo, amor fa amor, anche la Olimpia era cascata dal palco e aveva dovuto cavarsi la maschera. E nessuno aveva da ridirci sopra, che è quasi un miracolo dalle nostre parti, dove basta vedere due struconarse de scondon in su un canton, di corte, per tagiar tabari. Dunque il Polo era un ragazzo come si deve e alla sua innamorata aveva promesso un pegno. Ma tra il dire e il fare c'è sempre stato di mezzo il mare, e quel mare per uno eternamente al verde era diventato, cari miei, un oceano. Il Polo si scervellava tutto il santo giorno per trovare il bandolo della matassa e finalmente un giorno il Polo era il suo solito che pescava e stava tirando la rete in barca quando si accorse di un che di strano che si era impigliato tra le maglie. Delicatamente lo prese ed esaminandolo con attenzione si accorse subito che non era, no, cosa di tutti i giorni. Roba, ben si intende, da azente de mar, ma che parlava il cuore e gli occhi come una meraviglia. Una trina di mare, un'alga cioè, così delicata, così perfetta, tutta incrostata di calcio e di magnesio da parere un corallo. Quindi, felice come una Pasqua e gonfio d'orgoglio, si precipitò dall'Olimpia che spalancò pure lei tanto di finestre nel vedere quel prodigio della natura e cominciò a coccolarsi il moroso di mille gratificanti baci e moine. Però troppo fragile, troppo delicata, sarebbe bastato un ninin? Quel cruccio all'Olimpia non usciva di mente. E quanto può durare? Prima o poi si ridurrà in briciole. Avesse potuto riprodurla. Un pittore, si sa, non si sarebbe baloccato tanto. Un pittore è un artista. Quattro pennellate sopra una tela e via. Eccola una copia. Identica e incorruttibile. Ma una povera isolana cosa poteva fare? Comunque, voltala e rivoltala per la testa, sta idea del quadro, alla fine qualcosa saltò fuori, che era poi l'uovo di Colombo. Perché, pensaci un po' su, i ferri del mestiere del pittore sono i pennelli, quelli di una donna di casa sono ago e filo, filo e ago, no? E con quei due cosi si può fare di tutto, anche un mondo. Difatti, ago e filo, subito l'Olimpia si mise all'opera, e intrecciando con l'ingegno del cuore una rete più aerea e resistente di quella d'un ragno, passando e ripassando migliaia di volte il filo attorno a una nervatura, perfezionando uno stame, una foglia, una voluta, una curva, un ghirigoro, andò componendo una meravigliosa trina. Alla fine ne uscì fuori un capolavoro di incredibile perfezione e abilità, fatto di luce e trasparenze, come un vetro di Murano, che vuol dire un miracolo da fucina degli angeli. In questo modo, e non in altro, nacque il merletto di Murano, che solo un cuore innamorato, e solo a Venezia, poteva immaginare. Che bello che è, bel racconto. È una proprio. Cosa molto. Ma sono bellissime. Sono molto belle queste leggende su Venezia, e contiamo eventualmente per una prossima volta di tirarne fuori un'altra. Benissimo, vediamo se possiamo ascoltare un'altra canzone. A me piace molto, non so, è cantata da Lucio Dalla e intitolata Futura. Chissà domani su che cosa metteremo le mani, se si potrà contare ancora le onde del mare e alzare la testa, non essere così seri, rimani i russi. Gli americani, no lacrime, non fermarti fino a domani. Sarà stato forse il tuono, non mi meraviglio, è una notte di fuoco, dove sono le tue mani. Nascerà e non avrà paura nostro figlio. Chissà come sarà lui domani, su quali strade camminerà, cosa avrà nelle sue mani, le sue mani. Si muoverà e potrà volare, nuoterà su una stella, come sei bella. E se una femmina si chiamerà Futura, oh, il suo nome è detto. Mette già paura. Sarà diversa, bella come una stella, sarai tu miniatura. Ma non fermarti, voglio ancora baciarti. Chiudi i tuoi occhi, non voltarti indietro. Qui tutto il mondo sembra fatto di vetro e sta cadendo a pezzi come un vecchio presepio. Di più. Eccoci di nuovo in studio per salutarci, perché ormai il tempo è scaduto. Caro Antonio, io ti ringrazio come sempre. Io ringrazio te naturalmente per la possibilità di divertirci, perché qui naturalmente è un qualcosa che è straordinariamente importante. Vero? Questo richiamare alla memoria le cose. Eh sì. Allora, io saluto tutti quanti, tutti gli ascoltatori, e li aspettiamo, vero Antonio, per naturalmente, la prossima alla prossima volta. Serata. E assieme al nostro regista Eddie Daici porgiamo a tutti una buona notte. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre.